24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Renzi è bello, per me neanche tanto, e le consiglio pure di dimagrire perché si è pure anche inchiattito in campagna elettorale. Ha mangiato molto dei suoi alleati e quindi voglio dire tutto questo l'ha fatto aumentare. La ricetta di Daniela Santanchè a proposito di cibo, eccola qui, il motivo per cui Renzi si è inchiattito, ha mangiato i suoi alleati e quindi è un po' lievitato, così Matteo Renzi è un po' lievitato. E vabbè, in questa noiosa analisi del post voto, perché siamo a 4 giorni dal voto, non se ne può più, basta l'analisi, chi ha preso il 21%, chi ha preso il 40%, chi ha preso il 5%, chi ha preso il 16%, mamma mia. Ma anche negli altri paesi funziona così, non lo so, magari lì votano anche in meno di quanti votiamo in Italia e poi basta. Invece qui i partiti che vanno in analisi, si ritrovano, analizzano e poi è tutto come prima, presentano le stesse persone fino alla prossima elezione. Va bene, questo è 24 mattino e siamo a giovedì 29 maggio con Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Il vostro numero per i messaggi è il seguente: 349-238-6666. E può aprire il Parlamento? Sì, può aprire il Parlamento. Evviva! Eccoci qua. Il caffè volentieri a tutti quanti. La grande Nicole Minetti è sempre qui con noi. Per chi pensa sia sparita, eccola qui a offrire il caffè a tutti quanti, come sempre. Anche oggi lo offre a Marione Adinolfi. Marione Adinolfi. Buongiorno. Che è successo all'università? Che t'hanno contestato? M'hanno contestato, ho detto non potevo presentare il mio libro all'università perché sono un omofobo e un antiabortista. Ma chi è sto deficiente? Che... Tra l'altro, proprio uno striscione grosso, una decina di persone. Oggi penso che replicheranno a Firenze perché oggi presento a Firenze. Voglio la mamma. Libro del quale condivido pochissime tesi, però come ben sai. Come Voltaire ci insegna, no? Come Voltaire ci insegna. La vita perché tu possa. Come Voltaire ci insegna, ti ho invitato, ne abbiamo parlato. Ne abbiamo discusso. La segreteria delle foglie, tu togliere il mio libro. Insomma, è fatta così. Io dico a tutti di comprare Voglio la mamma, per poi come dire, anche contestare le tesi, se si vuole, in maniera pacifica. Vabbè, ma che è successo? Ti hanno aggredito? Roba da universitari. Chiacchiere. Ah, li conoscevo, tipo quelli che frequentavo l'aula fumo all'università. Vabbè. Allora, saluto anche la nostra direttora, Aurora Lussana, direttora della Padania. Eccola qua, Aurora, buongiorno. Buongiorno Miriam, un caro saluto a te, un caro saluto ai tanti amici di Radio 24. La seconda radio più amata dopo Radio Padania Libera. Ah, perfetto. La xenofoba Aurora Lussana. Abbiamo appena iniziato. Avete fatto il patto con la Le Pen. Non so i colleghi giornalisti, ma io il greco lo conosco, sia quello antico che quello moderno. Sì. Phobos è la paura. Io non c'ho mica paura di Xenos, che sono gli stranieri. Non hai paura. Xenofilo li ami, però adesso io, eccola. Dalla parte dei popoli. Eccola lì, è il titolo della Padania, dalla parte dei popoli. A proposito di questo, ti sbatto subito una notizia così che oggi la stampa dà a pagina 7. Più italiani in fuga che stranieri in arrivo. Di nuovo emigranti, sono i nostri italiani che se ne vanno. Eh? Sì, sono i dati dell'ISPAT, la fotografia. Hai visto. Vabbè, dalla parte dei popoli. Ma Marione Adinolfi, ti sconvolge questa alleanza tra Le Pen e Salvini? Io Come... Ieri mi sono fatto un bel dibattito televisivo alla Gabbia, che come sempre è un programma sobrio della sì. Insomma, con Salvini, certo, so, certo. Ce ne siamo un po' cantate, diciamo, ecco, su questo argomento. Non mi sconvolge, certo, un pochino mi fa sorridere l'idea che gli ipernazionalisti del Front National stiano insieme con i leghisti che volevano fare la secessione. Insomma, questa è una cosa abbastanza curiosa. Mi ricordo quando nacque il famoso Polo delle Libertà, che Alleanza Nazionale e la Lega non si potevano neanche alleare insieme, quindi ci fu un'alleanza di Forza Italia al sud con Alleanza Nazionale, al nord con la Lega, perché Alleanza Nazionale e la Lega non si parlavano neanche, certo. Adesso stanno col Front Nazionale. L'alleanza è variabile, l'alleanza è variabile, però insomma... Ragazzi, questo è un movimento identitario, sovranista, o no, giusto la Lega, sì. Che si allea a livello europeo con movimenti antimigrazionisti, identitari e sovranisti come l'EFPO austriaco, il Vans Belang, degli indipendentisti secessionisti fiamminghi che sono come noi perché sono per la sovranità dei popoli, la Le Pen che anche lei è per la sovranità del suo popolo che è la Francia. Oggi è la festa della Lombardia 29 maggio, lo sapete almeno questo? Accidenti, no, io sono lombardo ma non sapevo, bravo, porca miseria. Allora, Mina, oh, studia, studio, tutti. Studio, è la festa della Lombardia oggi. Ma che vuol dire la festa della Lombardia? Che ne so, ma che ne so? Che ti vuol dire, risotto allo zafferano? Non lo so, mi mangerò la cassola oggi, ma che è? Allora, ma che è? 9 maggio festeggiamo tutti noi lombardi, sì. La vittoria della battaglia di Legnano. Oh, tutti, 1986, eh? Oggi ho visto dei lombardi, Milano paralizzata dai festeggiamenti oggi. I comuni lombardi e non solo capeggiati da Milano sconfissero in battaglia il Barbarossa, per noi una data memorabile che dimostra che cosa? Che l'unione fa la forza dei comuni degli autoctoni è decisiva contro chi l'invasore stesso. capito Marione, oggi non venire a Milano è bloccata da tutta gente parata a io adesso sto a Milano, fantastico, sto adesso a Milano. Scendo e vado a festeggiare Legnano, fermo il primo mio che passa e dico oh ma stai festeggiando Legnano e i popoli e i comuni, quante fregnacce, mamma mia. No, adesso il mio cuore lombardo sanguina. Dai, e viene fuori non lo sapevi Milano, no, vergogna. È vero. Come si disprezza tutto. Io quando lavoravo a Roma c'era il Capodanno romano, io ero rispettosissima, poi c'era la primavera romana, cioè, ma era l'impero romano, lo sanno, era l'impero romano. Oh, Alessa di Norfi, abbassa i toni, perché qua esce fuori il mio cuore lombardo, insomma. La di Roma, abbiamo dominato il mondo, mica tre comuni con vabbè, ma hai convinto Di Norfi, oggi festeggio, perché guarda che mi stai innervosendo. Sì, prima devi studiare. No, adesso, vabbè. Vabbè. Cosa, vabbè, studierò un po' di più, studierò un po' di più e poi festeggerò. Oggi si festeggia, tutti a colazione pago io. Vabbè. Ma che festeggiamenti si fanno, Aurora? Fammi capire. No, stasera in piazza Lombardia c'è una rievocazione storica del Polo di Legnano. In piazza Lombardia. Ma ragazzi, ma se non vi piace la storia, sa niente, parliamo d'altro. No, ma per carità, noi apprezziamo sempre queste lezioni che ci dai e quindi... Ma io non do lezioni a nessuno. Ma no, lezioni, ci hai spiegato una cosa, ci hai spiegato una cosa. Eccola. Vabbè. La storia degli altri paesi, non è io. Cioè, anche la storia del Congo, non è che... La storia del Congo, ecco, no, dove volevi arrivare a parare? No, dove volevi... penso che... No, io sono rispettosa di tutti i popoli, di tutte le storie, di chi ama la propria terra. Vabbè. Comunque, ci scrive un messaggio un ascoltatore: ho pulito la mia Alabama e fra poco festa grande in centro, Mario Adinolfi. Vabbè, grande. Allora, spadone, ragazzi, mi raccomando, senza spadone non posso più. No, appunto, ma la parata in costume, Aurora. Per forza, ma cosa non fareste pur di non parlare di questa giornata storica? Ma stiamo parlando. Contro la solita frittata fra popolari e socialisti. Okay, ma è da un quarto d'ora che stiamo parlando di questa roba qui. Spesso i popoli chiama questi movimenti populisti, i popoli, no? Oggi festeggia una giornata storica per un'alleanza europea, per una data. No, va bene, va bene, va bene. Vedremo quanti servizi ci saranno anche in questi telegiornali un po' irregimentati che parleranno di questa vicenda. Ma allora, Marione, secondo te qual è la forza politica più in difficoltà in questo momento? Perché io non ho capito una cosa, si parla, è vero, Grillo aveva messo l'asticella alta, però si parla di grande disfatta al 21%, Berlusconi è la destra sfasciata al 16%, Alfano sarebbe la destra che nasce al 4%, insomma tutto è relativo, capisco. Allora, però il problema è uno solo, che il 25 maggio, per restare alle metafore della Lussana, gli italiani hanno votato Matteo Renzi imperatore. Perché di fatto oggi non c'è nessun partito che può permettersi di immaginare di condizionare Renzi al punto di dire ah no, su questo strappo e andiamo al voto. Perché Renzi dopo questo risultato può tranquillamente imporre i suoi punti di vista, la sua visione riformatrice. Ha una grande responsabilità e gli altri sono evidentemente in difficoltà perché non hanno l'arma. Cioè, di solito in politica si fa il solito balletto, perché uno dice attento che posso strappare, attento che posso far saltare il banco. Adesso nessuno può far saltare il banco. Imperatore. Ha un'opzione imperiale Matteo Renzi, il problema è che adesso deve cavarsela, cioè deve fare le cose, perché poi la ciccia è economica, ci sono questioni serie, adesso è finita la storia elettorale. Però per gli altri partiti la difficoltà non è nei risultati che hanno ottenuto, è nel non avere più l'arma elettorale dalla propria parte, cioè nessuno può dire vabbè, allora facciamo lo showdown andando verso le elezioni anticipate. Si vota probabilmente a questo punto davvero nel 2018 e in questo momento tutti i partiti stanno ristrutturando la loro identità. Va bene. Questa è una cosa molto complicata per alcuni partiti che sono in difficoltà. Pensa ieri a Grillo che è andato a parlare con Farage. Esatto. Sì, immediatamente si è aperto un fronte all'interno del Movimento 5 Stelle, politico questa volta, un fronte che dice ma noi con quelli non c'entriamo niente. Il problema della ricerca dell'identità, cioè chi siamo per tutti questi soggetti politici è estremamente interessante. Interessante anche il meccanismo della Lega che si è modificato in questa maniera, cioè da secessionisti alle ali degli ipernazionalisti, cioè è una transizione interessante. Salvini da questo punto di vista è stato bravo, ha cavalcato la battaglia no euro in maniera molto esplicita e ha ottenuto un risultato positivo. Perché? Perché ha modificato l'identità del suo partito in maniera elettoralmente efficace. Ora però sì, bisogna fare la partita politica per anni senza elezioni e quindi senza campagna elettorale. E la cosa è un po' complicata. Certo. Allora, tra l'altro, voglio capire da Aurora Lussara, che lo critica, se davvero Matteo Renzi adesso è l'imperatore. Prima, Aurora, ti leggo due messaggi. Brava Aurora, difendi anche noi bergamaschi all'estero. È Claudio da Arezzo, bergamasco all'estero. Cosa riti? Vabbè, Claudio da Arezzo. Vabbè, poi di Norsi, vabbè, poi ti devo dire anche questa che non farà piacere a Miriam Lucchetti, di messaggio che è arrivato. A proposito di festa lombarda, basket Roma Cantù 3-0. Cioè Miriam Lucchetti se ne va, abbandona canturina doc e tifosa di basket del Cantù, si è alzata, se n'è andata dallo studio. È una brutta botta. Poi fatemi salutare anche questo, lo devo fare. Buongiorno debosciati, stamattina piovigina, grazie per la vostra informazione. Sapete da dove ci scrive in diretta, ci sta ascoltando in streaming? Dalla DIG, che mi dicono sia le Seychelles. Farabutto ci sta ascoltando dalle Seychelles, ci stanno ascoltando. Vabbè, Aurora è l'imperatore della politica italiana, Renzi. Sì, ha ragione Adinolfi, gli altri partiti non hanno più potere contrattuale, può fare ciò che vuole, e poi adesso vedi che qua, insomma, credo che alla fine sia gli altri si riposizionano a partire da Forza Italia, che infatti oggi cosa fa? Viene a firmare i 6 referendum della Lega. C'è ancora tempo fino a 3 giugno, andate a firmare in tutti i vostri comuni, ufficio anagrafe, ci segnalano un po' di ostruzionismo da parte di qualche impiegato comunale, abbiamo un numero a cui segnalare queste difficoltà, però insomma quando vedi Berlusconi e Toti che oggi vengono a firmare il referendum della Lega, capisci che c'ha ragione la Dinolfi. No, ma infatti la Dinolfi c'ha ragione, la Dinolfi. Funzionano o Renzi. Cioè, ma è incredibile, comunque col 6% tenete per come dire, avrei un'immagine per del centrodestra o il centrodestra si rifonda intorno a questo giunto Cardano che è Matteo Salvini, che ha dimostrato di essere l'unica parte vitale di un centro-destra votato all'eutanasia. Il giunto cardanico di Matteo Salvini, questa è una cosa che nessuno gli ha mai detto, non so come la prenderà oggi. Ma Matteo è un ragazzo molto tollerante, guarda. Comunque, cari ascoltatori, sfoderate le spadone, lucidate le vostre alabarde, festeggiate il 29 maggio, andiamo in traffico e poi la segreteria telefonica di Nolfi, mi dicono che c'è un messaggio per te, ascolta bene. 24 mattino. La febbre a 40 di Renzi facilmente sale, ma facilmente scende. Basta una tachipirina e la butta giù. Ha raccolto l'indignazione dall'alto, ma questa non durerà. Caro Milan, vecchio leone della stampa italiana, basta con la carta costa. Devi dire che lo Stato costa. Perché dentro ci sono tanti di quei parassiti che bisogna cacciare. Se vuoi ti faccio l'elenco. Ciao Milan. Niente, solo per dirti che alla fine di tutto Adinolfi ha ragione. Adinolfi ha dimostrato di avere ragione un'altra volta. Siamo un popolo di pecoroni, tutti lì sulla segreteria telefonica a inveire forcone, zappe e quant'altro, e poi alla fine con una semplice crocetta che si poteva mettere sulla scheda elettorale si sono cagati addosso. Adinolfi, sei un grande. Ciao Mina, anche per oggi cazzo e latte Favoiardi, buona colazione. Vorrei avere il numero di telefono di D'Alema per mandargli proprio un sms, per mandarla a fare in cu. Sì, ciao Alessandro, Grillo ha preso il Malox, tra qualche mese gli amici del PD gli toccherà prendere la preparazione H, brucia, non ti preoccupare che vinciamo poi, stai sereno. Ciao Mila. Vinciamo poi, caro Marione, hai visto? Come tu pensavi magari qualche insulto, qualche... invece vedi? Vedi? Avete solo rabboniti, ma d'altronde io non è che li tratto male, io li conosco, è una cosa diversa, capito? Cioè, per cui... Che vuol dire li conosci? Che so, che li conosco questi italiani, io ci prendo il tram insieme la mattina, so come sono fatti, bla bla bla bla bla bla, e poi alla fine amano sempre il potere, così come è fatto, il potere è vero, è vero, è vero, è vero, come votano sempre gli stessi partiti, gli piace così. E poi gli piace lamentarsi al bar. Ma facciamoli lamentare, accendiamo la sedia delle fuori, lo sappiamo, ogni volta mi dicono il forcone, adesso arriva, fanno la rivoluzione. Siamo in Italia, non succede mai, capito? Non succede mai. Niente, è solo chiacchiera. È solo chiacchiera. Siamo chiacchiere distintivo. Ma magari chiacchiere distintivo. Solo chiacchiera. Ma magari distintivo. Ora io vorrei capire una cosa, però. Allora, intanto vi faccio sentire Civati. Civati, devo dire, è l'unico che. No. Allora, doppio Civati. Beh, almeno è l'unico che non è salito sul carro del vincitore. Ma tu l'hai visto, Nico Stumpo. Meraviglioso. Festeggiare. Fassina era il più bello di tutti. Fassina che oggi fa un'intervista e dice: ho proprio sbagliato. Matteo è l'uomo giusto al posto giusto. Ho proprio sbagliato tutto. Vabbè, Civati. Cioè, non è ancora salito sul carro lei? No, io non salgo sul carro. No, perché c'è una folla pazzesca. No, anche perché appunto posti mi sa che non ne sono rimasti più. E poi io non cambio idea sulle cose fondamentali. Vabbè, insomma, non sale sul carro del vincitore. Io però vorrei capire, da Aurora Lussana, Mario Adinolfi, cara Aurora, che fastidio danno le immagini del ministro Maria Elena Boschi che si fa fare la treccina e va a prendere i bambini in Congo. Ora, cioè, cosa doveva fare? Allora, io sono contentissima che siano riusciti a portare a casa questi bimbi. Sono veramente contenta. Dovevano farlo di soppiatto, in segreto? Però perché vabbè, quello che ha fatto ieri è una roba che dovevano fare 8 mesi fa, doveva farlo la Kenge, poi aveva la delega sull'adozione internazionale, non l'ha fatto, quindi sono stati bravi a fare quello che hanno fatto. Però dai, perché c'è una ministra fotogenica, bella come il sole, che sembra una Madonna rinascimentale, cioè non usarla così per farti lo spot, c'era il fotografo di Palazzo Chigi a bordo, il suo volo di Stato, lei che è andata in tutti i TG, cioè scusami Ele, c'hai i rapporti col Parlamento e le riforme, cosa c'entra? Cioè, capito, proprio perché è bella. Ma oggi guarda, lo spiega la stessa Chieng, dice vabbè, tutta la questione delle adozioni internazionali dipende dal Presidente del Consiglio Renzi e lui può delegare chi vuole, ha delegato e appunto va a dire, la critica è a questa delega, la Mogherini sappiamo era impegnata su un altro volo di Stato molto più drammatico, riportavano una salma dall'Ucraina, dove stanno facendo un genocidio dei filorussi, no? Perché sai, l'Europa che pensa ai razzisti e populisti, e poi con l'Ucraina filo. Vabbè, insomma, hanno fatto un po' lo spot col fotografo del Palazzo Chigi, anche per te Mario, hanno fatto un po' lo spottone. E che c'è di male che fanno lo spot? Allora, tanto non ci sono le elezioni alle porte, quindi che l'immagine sia un'immagine bella è una questione tanto complicata, tanto problematica, cioè è una bella immagine, no, ma anche questa infatti oggi guarda che stai di cioè, guarda, facciamo noi i nostri programmi e cerchiamo di farli bene, belli anche, ma perché è proprio il governo amici, no? Perché hanno questa modello è il governo amici, è il governo amici. Non capisco proprio la guarda che Adinolfi stai dicendo ciò che scrive oggi Gramellini, non so se questo ti fa piacere, questo è un problema. lo sapevo che no, perché Gramellini dice ma che male c'è nell'esibire una cosa bella, nell'esibire il bene, no? C'è sempre questo pudore nel nascondere il bene, hanno fatto questa cosa, esibire già una parola che non avrei non è un problema di esibizione, adesso non so se l'ha usata, magari gliela metto io, ma... è un problema di gradevolezza di un momento che rappresentarlo in maniera gradevole non mi sembra vabbè ma io siccome devo chiudere voglio un parere da Mario Adinolfi, noto calcistico esperto, no, perché è juventino, quindi voglio dire però insomma noto amante del calcio, su la polemica di Prandelli che prende quanto guadagna in 12 anni il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 1,7 milioni. Ma io so che c'è già la soluzione, il premio per il campionato del mondo, se lo vinciamo, sai quant'è? Quanto? Ai calciatori, 80 euro. Cioè, diranno quello. Vale, 80 euro questa. Dai, ragazzi, che, insomma, il dato è, ma veramente vogliamo fare la polemica sul nulla. Oggi è l'apertura del quotidiano nazionale. È l'apertura del cura al quotidiano nazionale. Tu, ragazzi, cos'è che devono fare? Deve essere una cura, ma è ovvio, c'è un criterio di mercato, c'è un criterio di mercato. Se alleni il Milan, Pippo Inzaghi, a cui compreranno Pluto e Paperino, come gli ho detto. Quanto guadagnerà? 3 milioni? E allora ti pare che l'allenatore nazionale può guadagnare 200.000 euro? Chiamano me ad allenarla. Non Pippo Inzaghi, Pluto e Paperino, questa l'avevi messa anche su Twitter. Ma vergognati, Juventino, vergognati! Grazie, Mario Adinolfi, Aurora Lussana, alla prossima! 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. E allora alle 7:18 minuti ci siete? Vi siete svegliati? Debosciati? Eccoci qui, pronti a leggere i giornali e pronti a ricordarvi che più tardi parleremo di alcuni argomenti, primo fra tutti la vicenda che viene oggi raccontata dai giornali del pentito dei casalesi Antonio Iovine, che sta iniziando a fare i nomi e a raccontare uno spaccato della camorra e delle collusioni con la politica in Italia. Allora, siccome tira in ballo persone, oggi avremo ospite Lorenzo Diana, ex senatore, che da anni vive sotto scorta perché è il ministro dei casalesi, ma è stato citato anche dello stesso pentito Iovine, e vorremmo capire anche di questa vicenda del pentitismo come si può affrontare in Italia. Parleremo anche un po' di politica perché avremo ospite il deputato di Forza Italia Maurizio Bianconi, che per tanto tempo è stato tesoriere del PDL, perché ieri Berlusconi ha detto non ci sono soldi, non ci sono più soldi, e insomma, e poi all'interno della centrodestra la polemica è proprio sulla leadership di Silvio Berlusconi, ma di questo parleremo più avanti. Ora andiamo a sfogliare i quotidiani che trovate in edicola. questo giovedì 29 maggio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre così: bot, rendimenti ai minimi, l'euro scende a 1,36 dollari. C'è ancora tanta Europa nelle prime pagine dei giornali. Il Corriere della Sera apre sulla minaccia degli euroscettici. Per la Stampa, Grillo Farage, nasce l'alleanza anti-Europa. Il Messaggero, Unione Europea cresce il fronte anti-rigore. Repubblica invece ha una notizia sulla vicenda corruzione. Subito i poteri a Cantone. Questa la roadmap di Renzi. Per il Fatto Quotidiano, l'inchiesta che ha portato agli arresti l'ex ministro Clini. Clini, che brutto ambiente, Consob, Pizzini anti-onesti. Questo è il titolo di prima pagina con la didascalia L'Italia che non cambia. Per Libero, centrodestra, via le primarie. Il giornale Berlusconi mette in riga Forza Italia. Mentre Il Giorno apre con questa polemica sullo stipendio al CT della Nazionale Prandelli, si avvicinano i mondiali, dai a Cesare 1,7 milioni, gli stipendi d'oro del calcio, Prandelli guadagna in un anno quello che Napolitano prende in 12 anni. 5 stelle di xenofobia, invece è il titolo dell'Unità per l'Alleanza Grillo-Farage, e anche il manifesto Grillo-Farage, accordo di razza, faremo guai a Bruxelles. Non è piaciuta, insomma, il giornale di sinistra, l'alleanza annunciata tra Grillo e il leader della UKIP ultradestra. Britannico, va bene. Io però voglio partire proprio da questa vicenda che riguarda Antonio Iovine, pentito, personaggio di punta del clan dei Casalesi, e si è detto pentito dopo che è stato arrestato nel 2010. Era stato condannato 2 anni prima all'ergastolo e sta iniziando a parlare. Approfondiremo alle 8:15, ma oggi sono pieni dei suoi verbali i giornali. Leggo per esempio da Giovanni Bianconi e Fulvio Bufi a pagina 22 del Corriere della Sera: il boss pentito racconta, sindaci e parlamentari sono nel sistema. Dice: so benissimo di quanti gravi delitti mi sono macchiato, di come queste vicende abbiano prodotto un beneficio anche economico, ma sto spiegando il funzionamento reale di un sistema nel quale non esiste solo la responsabilità della camorra, ma essere responsabile unitamente ad altri soggetti che dal sistema stesso hanno tratto importanti vantaggi. Inizia così la deposizione di Oninno, 50 anni, capo dei Casalesi, insieme a Michele Zagaria, Francesco Schiavone, detto Sandocan, e Francesco Bidognetti, detto Cicciotte Mezzanotte. Nei primi interrogatori parla intanto dei suoi omicidi, ne ha compiuti talmente tanti che dice: non ricordo neanche, ho partecipato all'omicidio del vigile urbano di San Cipriano, ricordo l'omicidio di Griffo Nicola, poi tale Ciccillo Usuricillo, un altro omicidio di un uomo di colore a Castelvonturno, posso citare il quadruplice omicidio di Pagano Mennillo Orsi Gagliardi, ho commesso l'omicidio di Diana Liliana nel 91. Insomma, snocciola e forse ne dimentica anche qualcuno, tanti sono, ammette lui stesso. Poi racconta come durante la mia detenzione mia moglie abbia ricevuto uno stipendio mensile di 4-5 milioni di lire. Il pagamento degli stipendi ai 41 bis variano tra 2.500 e 15.000 euro al mese in relazione alla diversa importanza. E poi, ecco, parla dei legami con la politica. Il rapporto con la politica è indispensabile, senza troppe distinzioni tra i partiti. Io ero del tutto indifferente a chi si candidava a sindaco, dice Antonio Iovine. Nel senso che chiunque avesse vinto automaticamente sarebbe entrata a far parte di questo sistema da noi gestito. Non aveva alcuna differenza il colore politico, il sistema era ed è operante allo stesso modo. Anche se mi sono sempre chiesto perché in alcuni casi più evidenti le autorità non abbiano reagito denunciando quel che accadeva. Cita per esempio un appalto e dice: era noto a tutti che quella impresa di quell'appalto di Antonio Iovine era mia, eppure nessuno si è mai opposto a questo sistema. Per esempio a San Cipriano una personalità come Lorenzo Diana, che pure ha svolto un'azione politica di contrasto alla criminalità organizzata, ha permesso che noi continuassimo ad avere questi appalti. Noi Lorenzo Diana l'avremo ospite alle 8:15, perché lui, ex senatore antimafia, che ancora oggi è sotto scorta per le minacce dei Casalesi, immagino si sia alquanto risentito, e vorremmo capire anche il fatto che viene citato da Antonio Iovine, le cui indiscrezioni appunto sono su tutti i giornali, anche Repubblica, omicidi, affari, soldi ai politici, così sono diventato il re di Gomorra. Parla poi di business col ministero all'agricoltura quando c'era ministro Alemanno, che ovviamente ha smentito. C'è anche tutto un tema di come vengono e come dovrebbero essere gestiti i pentiti, come Francesco Lalicata spiega in prima pagina della Stampa. L'articolo poi continua a pagina 5. Ebbene, Francesco Lalicata spiega che sono trascorsi più di 30 anni da quando Tommaso Buscetta ruppe gli indugi e consegnò a Giovanni Falcone l'inedita foto di Cosa Nostra siciliana ripresa dall'interno e dall'esterno, anche nei particolari più profondi e sconosciuti. Fu un terremoto che ha finito per svuotare il monolite mafioso, riducendolo nello stato di debilitazione in cui si trova adesso. Oggi fa notizia il pentimento di Antonio Iovine, o Ninno, uno dei capi storici del clan dei Casalesi, attualmente all'apice della notorietà anche per via della fortunata serie televisiva ancora in programmazione, vale a dire Gomorra. Qualcuno potrebbe pensare di liquidare l'evento con un'alzata di spalle motivata dalla sua fazione, ma sarebbe un errore. Ogni colpo assestato alle mafie è un passo avanti verso un'esistenza migliore dei cittadini che abitano quei territori infelici, anche di quelli che, pur nati in latitudini più serene, rischiano ancora il contagio infetto di Gomorra e di altri cancri. Ma certo, da Buscetta ai giorni nostri, quando il pentitismo spiazza la criminalità organizzata, ora, come dice il procuratore capo Caffiero De Rao, bisogna come dire, valutare parola per parola quello che dice il pentito. Invece, saltando letteralmente a un altro argomento, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, è ritornata prepotente sui giornali la polemica sui farmaci e su Big Pharma, visto che il governo ha chiesto e ha presentato ora il conto ad aziende farmaceutiche come Novartis, Roche e Pfizer, chiedendo 1.214.000.000 di risarcimento per i danni subiti dalla sanità pubblica per i casi Avastin, Lucentis e anche il farmaco Xalatan. Decisione annunciata dal ministero, tutti i giornali ne parlano, Repubblica, Roche e Novartis devono pagare. Fabio Tonacci a pagina 18, è il risarcimento danni più alto chiesto dallo Stato italiano ai colossi della farmaceutica, 1,2 miliardi di euro. È un messaggio a Big Pharma: chi viola le regole, in primis quelle che disciplinano la concorrenza del mercato delle medicine, paga. Il Ministero della Salute, con una diffida legale a tutela degli interessi pubblici, rivuole indietro da Novartis e Roche tutti i soldi che il sistema sanitario ha dovuto sborsare negli ultimi 3 anni per curare i pazienti affetti da maculopatia con il costosissimo Lucentis invece che con l'Avastin. Il conto del ministro Lorenzin, presentato alle 4 società coinvolte per tutti i danni patrimoniali e non arrecati illecitamente, è appunto di quelli salati: 45 milioni per il 2012, 540 per il 2013, 615 per il 2014. E non solo, ha chiesto altri 14 milioni a Pfizer per la vendita dell'Oxalatan per abuso di posizione dominante. E beh, insomma, un conto davvero salato, anche la Stampa ne parla, il governo attacca Big Pharma, chiesti 1,2 miliardi di danni. Va bene, prima della pubblicità vogliamo fare un salto su Libero? Pagina 21? C'è questo articolo che mi ha incuriosito, se non altro. Rita Cavallaro, il sindaco che emette l'ordinanza nel napoletano contro gli sputi degli stranieri. Ma che schifo è? Ebbene sì, il sindaco di Palma Campania, Vincenzo Carbone, ha emesso un provvedimento per limitare i comportamenti indecorosi degli stranieri che hanno invaso negli ultimi tempi la cittadina, soprattutto i cittadini bengalesi. Sono tutti regolari, ma sono arrivati a 3.005 e hanno un indecoroso, come dire, modo di fare. Sputano per terra, sputano ovunque, non solo per strada, sputano anche nei locali, negli ascensori, negli androni dei palazzi. È un problema di decoro e di igiene pubblica, di sanità E allora eccolo qui, il paese che multa gli sputi degli stranieri. Vincenzo Carbone, sindaco di Palma Campania. Anche lui si è guadagnato il suo quarto d'ora di celebrità e qualche articolo sui giornali, nello specifico di Libero. Dopo un patto, soprattutto all'inomia. Addirittura. Al digestivo dell'informazione. Può essere visto come una cosa positiva, può essere visto anche con una lettura un po' così, vabbè, sulla quale non mi addentro. Grazie, caro ascoltatore, voglio subito ripartire da che cosa? Dall'Istat. L'Istat ha fatto la sua fotografia annuale sull'Italia. E c'è da dire che ogni giornale prende qualche spunto di questa corposa fotografia per metterlo in pagina come titolo. Per il Sole 24 Ore, come racconta Rossella Bocciarelli, la situazione del paese sono i conti dell'Italia. Istat, ripresa ferma a 0,6% se tutto va bene. Questo è il titolo a pagina 7 del Sole. Senza lavoro sono 6,3 milioni gli italiani. Contestata l'Unione Europea anche la stima del prodotto potenziale, appesantisce il fisco di 5-10 miliardi, racconta il Sole. La recessione è finita, o meglio può finire, come ha detto il presidente dell'Istat, ma occorre concentrare tutti gli sforzi sull'obiettivo della crescita, e la crescita appunto è ferma a questo 0,6%. A proposito di lavoro, un aspetto viene invece messo in pagina 8 dal Fatto Quotidiano con Giulia Merlo: i giovani sono rassegnati, 4 su 5 cercano la raccomandazione. Questo è il titolo. Il rapporto Istat parla di un paese vecchio e statico, e dai 15 ai 34 anni chi è senza occupazione si rivolge a conoscenti o parenti. Questa dunque è soprattutto la metodologia per cui i giovani cercano un posto di lavoro: la raccomandazione o l'aiuto nella cerchia familiare. A proposito di famiglie, invece, il Corriere della Sera sceglie proprio questo tema a pagina 2-3, sempre preso dal rapporto dell'Istat: non si fanno più figli. Ormai è una cosa che si sente, ma che è certificata anche dai numeri. Pagina 2, l'Italia non fa più figli, è un nuovo record negativo, e i giovani emigrano sempre di più. Una notizia buona, racconta Alessandra Lachi: in Italia si vive sempre più a lungo. Una cattiva però: anno dopo anno nascono sempre meno bambini. L'Istat ci segnala che nel 2013 abbiamo raggiunto il record negativo della natalità. Sono nati 515.000 bimbi, 11.000 in meno rispetto al precedente record negativo in assoluto, che era stato toccato nel 1995. Tra l'altro, fa sapere il Corriere e l'Istat, per la prima volta è diminuito anche il tasso di natalità delle donne straniere che partoriscono in Italia. Poco importa che con i loro 2,37 figli per donna le straniere sono ben più avanti delle italiane. In media in Italia c'è 1,29 figli a testa, partoriti a una età media di 31 anni. Il fatto è che in Italia la fertilità sta diminuendo in senso assoluto. E certo, tra l'altro, il Corriere fa un'analisi più approfondita, pagina 3, anche dei perché. Forse, per esempio, potrebbe essere un perché quello che scrive Simona Ravizza, pagina 3, la Francia dà 7.000 euro ai genitori con due bimbi. Altro che Italia, il secondo figlio è nato da un mese appena e a casa in Francia arriva un assegno mensile da 124 euro. Succede nell'unico paese al mondo, la Francia, che ha un tasso di fecondità costante da 40 anni. Qui il numero dei figli per donna è di 2 dal 1973. Miracoli del welfare. Per il demografo Gilles Pison, il baby boom in Francia non è mai finito per merito della politica familiare messa in campo dallo Stato. Al compimento del 14° anno di ogni figlio e fino al 20° l'assegno aumenta di 62 euro indipendentemente dal reddito. Per il 90% delle famiglie è previsto un bonus bebè da 923 euro che scatta al 7° mese di gravidanza. E fino al 3° anno di vita del bimbo, sempre per il 90% delle famiglie, c'è un assegno mensile di altri 186 euro. Insomma, in sintesi, una famiglia del ceto medio con un neonato e un bimbo all'asilo nido in un anno si può mettere in tasca fino a 7.000 euro. Questo accade in Francia. In Baviera, quindi in Germania, sono contributi pubblici pubblici per le vacanze dei ragazzini delle famiglie meno abbienti. In Gran Bretagna, oltre ad assegni per i figli, 30.000 negozi accettano voucher delle neomamme in difficoltà economiche. In Germania le coppie ricevono dallo Stato per il primo figlio 184 euro al mese, la cifra raddoppia se c'è un secondo bimbo. Dunque queste sono le politiche familiari negli altri paesi. Forse anche per questi motivi non si fanno molti figli in Italia? Domanda la cui risposta lascio a voi, ognuno può pensarla come vuole. Per quel che riguarda invece la politica c'è ancora molta Europa, molta analisi, abbastanza noiosa sinceramente. Vorrei sapere quanti che stanno facendo colazione in questo momento, stanno andando a lavorare, sono interessati dalle alleanze dei gruppi parlamentari all'Europarlamento. Però i giornali ne parlano, a Bruxelles doppio fronte contro l'Europa, allora c'è la notizia che la Lega Nord si allea con Marine Le Pen e ci sono le polemiche. C'è la notizia che Beppe Grillo ha incontrato Nigel Farage, questo leader del fronte UKIP che ha ottenuto molti voti, è stato il primo partito in Gran Bretagna e quindi i 5 Stelle divise anche sull'alleanza pagina 6 del Corriere, c'è chi dice no, c'è chi dice sì, c'è chi dice si interroghi la rete, come la deputata Giulia Sarti a pagina 9 della Stampa intervistata da Francesca Schianchi dice: appena ho saputo dell'incontro di Grillo con Farage ho pensato, ma perché lo UKIP? Qual è la strategia che sta dietro a questa scelta? Forse si sta pensando a un gruppo con loro per pesare di più in Europa, ma non c'è ancora nulla di ufficiale. Forse l'articolo più interessante sulla vicenda Movimento 5 Stelle è quello del Fatto Quotidiano a pagina 4, che analizza i 17 eletti del movimento, di cui si è detto spesso poco, visto che poco si sapeva. Chi sono? Ignazio Corrao, 30 anni, avvocato cresciuto ad Alcamo, capace di raccogliere oltre 71.000 voti. Giulia Moi, cagliaritana, 43 anni, biologa, dottorato a Londra, anche se nel suo curriculum dichiara di aver scoperto una molecola efficace contro la leucemia e il melanoma. Per questo è stata molto attaccata e criticata in rete. A dire, ci potrebbe dire il nome di questa molecola, e lei si è difesa dicendo ci sono anche restrizioni e strettissimi vincoli contrattuali da mantenere per la pubblicazione dei dati. Insomma, l'elenco di chi sono questi eurodeputati votati per il Movimento 5 Stelle. E poi c'è la politica di Renzi che è stato definito da Angela Merkel, appena visto, eccolo il matador. Poi hanno fatto notare, guardi, che però è italiano, non spagnolo, e allora la Merkel ha corretto il tiro. Eccolo il gladiatore. Renzi, il gladiatore. Secondo Angela Merkel. A proposito di gladiatori, combattenti, Mauro Meazza, buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno Alessandro. Beh, vedo che stai decisamente migliorando in questi lanci, sono via via più lusinghieri. Il mio gladiatore. Meno imbarazzanti. Senti, possiamo mostrare l'immagine allora, come eravamo d'accordo? Come sempre, ecco. Come sempre. Eccola qua, fammi fare il click. Ecco. No, perché allora così gli ascoltatori possono vedere come sono i bollettini della TASI. Oh. Poi lo vedi? Si vede qui, vedete, qua potete compilare, qua sulla destra. Ecco. Tutti gli spazi da compiere. Purtroppo abbiamo questi limiti tecnici, non so se si vede abbastanza bene. Sì, però è un po' sfocata l'immagine, effettivamente. Vabbè, se l'immagine non si vedesse bene, ti posso dire che però sul Sole 24 Ore di oggi, nelle pagine di Norme e Tributi, nella prima pagina della sezione di Norme e Tributi, abbiamo proprio i bollettini della TASI. A fuoco, visibili un po' meglio di come stiamo riuscendo ora, quindi purtroppo ci sono ancora questi limiti tecnologici. Volevo precisare, allora il bollettino adesso c'è, le regole precise non ancora, nel senso che... Vuoi tutto e subito tu, sei il solito... No, io volevo solo precisare, perché magari uno vede il bollettino va a pagare. No, un attimo, perché allora stiamo aspettando di capire questi termini, soprattutto le scadenze di pagamento, quindi leggete poi con attenzione Gianni Trovati che correda appunto i bollettini. Aspettiamo di sapere se ad esempio il rinvio al 16 ottobre potrà riguardare anche le prime case, e questo è abbastanza decisivo, vedremo domani, lo scopriremo solo vivendo, come diceva il poeta. Però intanto, insomma, abbiamo i bollettini che la regia, certo, ci ha mostrato. Ok, sfumiamo, ecco, pure l'immagine. Sfumiamo pure sui bollettini. Ti dico anche che sempre nella sezione norme e tributi trovi una serie di indicazioni per la cedolare secca. Sai che adesso ci sono diverse aliquote a seconda che tu abbia applicato o no il canone cosiddetto concordato, e quindi anche questo un aspetto immobiliare importante. Abbiamo vinto qualcosa all'otto che ti risulti? Non lo so se qualcuno ha vinto grazie ai nostri numeri, che adesso ai tuoi numeri che ora non ricordo, ma possiamo... non importa, possiamo anche chiuderla lì, stendiamo un pietoso velo. E invece ti volevo dare un altro numero, ma non è per questa volta a giocare all'otto, è il numero 15, che è il numero del nuovo IFRS, IFRS, e non so se mi segui bene su questo punto, stiamo parlando di contabilità. Ho avuto un attimo di sbandamento, devo dire, effettivamente. Allora, contabilità, perché è stato finalmente messo a punto un principio contabile comune tra l'Europa e gli Stati Uniti. Ha il numero 15, IFRS è la sigla dei principi contabili, e sostituirà gli IAS 18 e lo IAS 18 e lo IAS numero 11. Mm-hmm. Hai capito? Hai Ottimo. Seguito bene? Sì, sì. Ecco, no, perché è abbastanza 15, importante. 11, 18, il nuovo terno, no, di... No, non c'entrano i terni, c'entrano invece i ricavi, perché serve per contabilizzare allo stesso modo i ricavi, così ci capiamo. Tra l'una e l'altra sponda dell'Atlantico non contiamo un po' a capocchi, a ognuno per conto suo. E ti volevo dire, per la web tax, la UE ha detto no, va bene, non la facciamo la web tax, ma ti spiegano tutto nelle pagine norme tributi, sì. Galimberti. Ottimo. Avremo dei rating cinesi, ti volevo dire, uh-huh. Si legge nelle pagine di finanza, sì, Dagong darà dei rating anche alle aziende italiane, li hanno annunciati in arrivo, quindi avremo dei rating cinesi, dovremo imparare delle sigle, delle categorie nuove di classificazione. Ti fa piacere questo? Mi fa fatto? Molto piacere. Ok, allora mentre io lancio il mio lavoro che devo fare, vorrei chiedere alla regia se rimanda per favore l'immagine del bollettino. Qui il bollettino, eccolo qui in onda, vai pure. Perfetto, traffico. Alessandro Milan, il funambolo dell'informazione. Oh, questo mi fa molto piacere. Grazie ascoltatore. Allora, l'articolo di politica più interessante forse oggi lo scrive Repubblica, con una notizia in prima pagina: corruzione, subito i poteri a Cantone. Goffredo De Marchis, Eliana, Milella spiegano la strategia del premier. Renzi vuole rispettare scadenze e promesse. Sono il primo a sapere che i voti non sono per sempre, dice. Il 25 maggio è già considerato lui passato remoto e manda il messaggio chiaro agli elettori, e quello sull'ambito della corruzione. Vuole dare subito potere a Raffaele Cantone, permettendogli di vigilare sulla trasparenza degli appalti di Milano per l'Expo e poi ampliare le competenze dell'anticorruzione. Questa è la fase 2 del governo Renzi, annunciata da Repubblica con un articolo a pagina 2 e 3. Mentre Berlusconi ha ricevuto a cena tutti i suoi più importanti alleati, a dire: resto il leader. Questo è il titolo dei giornali, ed è scontro anche con Fitto, colui che è stato eletto all'Europarlamento secondo miglior numero di preferenze dopo Simona Bonafè, Partito Democratico. Chiede le primarie, chiede una nuova ridiscussione della leadership, ma Berlusconi dice: il leader resto io. L'unico allarme che lancia è: non abbiamo più soldi, le casse piangono, le casse piangono. Per la verità, nella ricerca sempre di nuovi volti e nuovi leader, Libero racconta che Berlusconi avrebbe messo gli occhi sul marito di Caterina Balivo. Si tratta di Guido Mario Brera, 44 anni, nato a Roma, carriera da banker consolidata a Londra, oggi chief investment officer in una importante società di gestioni patrimoniali. Ebbene, gli è piaciuto anche in qualche intervista televisiva, e quindi scrive Libero: il marito della Balivo, osservato speciale. Va bene, la polemica c'è, ma la notizia più importante è che questi bambini siano ritornati dal Congo, anche se dopo una vicissitudini lunghissime che abbiamo raccontato anche noi mesi scorsi. I bambini che sono stati adottati da famiglie, da 24 famiglie, sono arrivati 31 bambini riaccompagnati dal ministro Maria Elena Boschi. Le polemiche sono proprio su questo, questa ostentazione che è sembrata anche uno spot, anche se non siamo sotto elezioni, insomma l'occasione per far vedere il volto bello sicuramente del ministro Boschi e quindi anche il successo del governo Renzi. Le famiglie abbracciano i bambini dal Congo tutta la notte in auto per essere qui. Questa, ripeto, è la notizia più importante, che siano arrivati al netto delle polemiche. C'è anche un'intervista all'ex ministro Cécile Kyenge, che oggi è stata eletta eurodeputata, sul Corriere della Sera. Virginia Piccolillo dice: è il giorno del lieto fine, portato a termine da altri, però questo è ciò che vediamo, ma io ho lavorato nell'ombra, da dietro le quinte, ho continuato con un impegno deciso per raggiungere questo risultato, che però si è sbloccato ora. Kyenge: sì, ma non dipende né da questo né dal governo precedente, ma da un problema politico locale. A marzo c'è stato un rimpasto di governo in Congo e questo ha agevolato le trattative. Risponde anche alle polemiche sul perché si è andato il ministro Maria Elena Boschi. Beh, ha detto: la commissione adozioni internazionali ora ricade sotto la responsabilità del premier Renzi, ha il diritto di delegare chi vuole. C'è qualche polemica anche sul Messaggero a pagina 12. Viaggio lampo col fotografo al seguito, il ministro in persona, lo Stato mamma. Il giornale lo mette così: la fatina Boschi porta in Italia i bimbi del Congo. Sta di fatto che la polemica c'è, ma la notizia più importante è che siano tornati. Anche Massimo Gramellini dedica il buongiorno a questo tema, bene pubblico, dicendo: l'immagine del ministro Boschi formato Madonna con in grembo la bimbetta congolese che le arrotola i capelli biondi in una treccia è già entrata di diritto nella galleria dell'era renziana. Però, dice Gramellini, resiste un certo fastidio in Italia a ostentare il bene, perché il male può essere mostrato in ogni sfumatura morbosa, mentre il bene no. Il bene è circondato da una bolla di pudore, chiunque osi spezzarla viene lapidato dai ghigni del cinismo. D'Alema si vantò di aver rinunciato a una foto irresistibile quando da premier riportò in Italia due bambine rapite dal padre libico, anziché esibirle come un trofeo le nascose dentro una macchina dai vetri oscurati. Quella di Renzi non si vergogna di sventolare invece i suoi successi, forse anche per questo che vince. Così, bene pubblico, oggi il buongiorno di Gramellini. Ma sono al momento conclusivo, al momento della carta costa, oggi incredibile, incredibile, sul Corriere della Sera un'intera pagina di Marisa Fumagalli dedicata agli 80 anni e i festeggiamenti di 3 giorni consecutivi di Marina Cicogna. Chi è? Non chiedetemelo! Non chiedetemelo, io sono ignorante, ma inizia così l'articolo. Il senso del tempo che passa per una donna bella e avventurosa che compie 80 anni anche scegliere un abito nero, lungo, di pizzo leggero, a maniche lunghe. Indispensabili per una persona della mia età, sono ancora incerta se scegliere quello di Valentino o di uno stilista emergente, Antonio Grimaldi. Dice così Marina Cicogna parlando dei 3 giorni di festeggiamenti a Roma che culminano nella villa di Marilu Gaetani sulla Appia Antica. Ma chi se ne frega, una pagina del Corriere. Tanti auguri, Marina Cicogna, tantissimi auguri. 24 mattino. Eccoci qui, sono le 8:18, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, di che parliamo oggi? Amore, se sei capace, eh? Tieni. Amore, che stai a fare? Dritto, accussi purana. Sei pronto? Vai, va. seri fin quando va in giro. Mi sono cinzi e cannile giro. Beh, forse sarà anche la contemporaneità della serie Gomorra, che viene andata in onda da Sky, a rendere la notizia più appetibile per i giornali. D'altronde, della mafia dei casalesi, fino a qualche anno fa, prima del libro di Saviano, poi diventato film, poi appunto serie, sapevamo ben poco. Invece oggi la mafia dei casalesi è diventata argomento di dominio pubblico. Ed ecco allora che la notizia che uno dei capi dei casalesi, Antonio Iovine, detto Ninno, si sia pentito, abbia cominciato a parlare, una notizia che, come scrive oggi sulla stampa Francesco Lalicata, potrebbe essere liquidata da chi ascolta con un'alzata di spalle, no? Motivata dalla sua fazione. Ma sarebbe un errore, perché, come scrive e continua Lalicata, ogni colpo assestato alle mafie è un colpo e un passo avanti verso un'esistenza migliore di tutti. Dunque, Antonio Iovine parla. Le sue parole sono un colpo al sistema, un sistema che, dice nei verbali degli interrogatori, coinvolge tutti nel casalese, questo a suo dire, imprenditori, funzionari dello Stato corrotti, politici di ogni colore, tanto che mi ha colpito a un certo punto, come si legge nei verbali di Antonio Iovine pubblicati oggi dai giornali, racconta lui stesso, è una mentalità che possiamo definire casalese, della raccomandazione, dei favoritismi, la cultura delle mazzette, delle bustarelle, che prima ancora che i camorristi ha diffuso sul nostro territorio proprio lo Stato, del tutto assente nell'offrire opportunità alternative e legali alla nostra popolazione. Ne vogliamo parlare con Simone Di Meo, collega, scrittore di Camorra, e giornalista e collaboratore del Sole 24 Ore. Buongiorno Simone. Buongiorno a voi. Saluto anche Lorenzo Diana, che è un ex senatore, da anni è sotto scorta, anche attualmente, Diana? Buongiorno. Buongiorno, anche attualmente. Noi l'abbiamo chiamata anche perché negli interrogatori, nei verbali, il suo nome spunta ed è citato proprio da Antonio Iovine, e tra poco vedremo perché. Intanto, Simone Di Meo, ciò che sappiamo di Iovine, ciò che so io, ciò che sanno tutti e che va detto come premessa, è che è un pluriassassino. Lui stesso nei verbali non ricorda neanche quanti omicidi ha fatto, e che è un ergastolano. Detto questo come premessa, chi è e cosa e perché è importante Antonio Iovine? Il pentimento di Iovine è sicuramente importante per svelare il lato oscuro imprenditoriale e affaristico del clan dei casalesi. Una cosca che è stata smantellata dal punto di vista militare dalle inchieste della Procura di Napoli, ma che conserva ancora intatti quei santuari dove si sono accoppiati i poteri criminali, quelli politici e quelli imprenditoriali. La questione di Iovine è complessa dal punto di vista investigativo, perché ovviamente lui cercherà di ricostruire i flussi finanziari che hanno alimentato il clan, però bisogna prendere queste valutazioni e anche e soprattutto il riferimento alle accuse ai politici e alla classe politica che il collaboratore fa con grande attenzione. Tu prima hai letto un passaggio molto evocativo, molto noir di Iovine. Bisogna fare però attenzione, perché se c'è una cosa peggiore dei camorristi, sono i camorristi che si pentono e che vogliono fare i moralisti. Quindi utilizziamo Iovine come strumento investigativo, consapevoli che non tutto quello che dice è oro colato, non tutto quello che dice è verità rivelata. E questo infatti è il tema di come trattare i pentiti, da quando da Tommaso Buscetta a oggi, voglio dire, come valutare le sue dichiarazioni. Valutarle ovviamente nell'ottica di una seria attività di riscontro, fermo restando che comunque il potere esplosivo delle sue dichiarazioni è certamente un deterrente per le giovani generazioni che si avvicinano al crimine, perché se un personaggio del calibro di Antonio Iovine decide di calare il capo davanti allo Stato, significa che davvero la camorra non è un'alternativa di vita. Quindi, in attesa di riscontri giudiziari alle dichiarazioni di Iovine, che potranno arrivare anche tra anni, non è detto che siano immediate, iniziamolo a utilizzare come eccezionale spot promozionale per la cultura della legalità. Perché si pente Iovine? Lui dice: voglio cambiare vita, chiudere una pagina. A parte che chiudere una pagina con quello che ha combinato non è certamente facile a farsi come dirlo in una frase. Ma perché secondo te si pente? Si pente perché non è abituato ai rigori del 41 bis, ha un ergastolo e altri gliene arriveranno tra un po', ha sostanzialmente un'età ancora in cui è possibile cambiare vita, a 50 anni. Lui premette nel primo interrogatorio di metà maggio davanti al PMR di Turo che oramai ha scelto una strada, un percorso di vita migliore rispetto a quello che lo ha caratterizzato fino ad allora. Quindi lui si pente, sostanzialmente dice per cambiare vita, ma è certamente una questione, una scelta di comodo per cercare di attenuare i rigori del carcere duro e per avere in prospettiva una via d'uscita, perché altrimenti l'unica via d'uscita per Iovine sarebbe stata in una bara. Allora, come detto, Lorenzo Diana, in uno di questi verbali Iovine dice, per esempio, una ditta, la ANAV del 1989, che ebbe un appalto nell'agro Aversano, era noto a tutti che quella era un'impresa di Antonio Iovine, eppure nessuno si è mai opposto a questo sistema. Anche a San Cipriano, una personalità come Lorenzo Diana, che pure ha svolto un'azione politica dura di contrasto alla criminalità organizzata, ha permesso che continuassimo a avere questi appalti con i sindaci. Diana, io l'ho invitata varie volte a parlare, proprio perché lei è un simbolo, è considerato un simbolo dell'antimafia, tanto che da anni vive sotto scorta per le minacce dei casalesi. Come ha appreso e come ha reagito a sapere che Antonio Iovine la coinvolge? Ma non sorprende più di tanto vedere che persone come Iovine, che non dimentichiamo è un camorrista, uno che riconosce, ma non c'è bisogno del suo riconoscimento, che ha condotto una vita ammazzando persone, torturando e opprimendo una popolazione, opprimendo un'imprenditoria a cui veniva impedito di partecipare alle gare d'appalto. Allora sicuramente non sorprende più di tanto, per quanto con una pernacchia di Libertotò si può commentare le parole di Iovine, perché Iovine si deve mettere d'accordo con se stesso, dal momento che riconosce, e per la verità Iovine non deve essere quello che commenta da una cattedra politica, sociologica oppure addirittura morale le situazioni e le persone, ma Iovine si deve mettere d'accordo con se stesso dal momento che, mentre dice che io non avrei fatto nulla contro una sua ditta, magari fosse una sola ditta la sua, dall'altra parte però lui organizzava, partecipava ad un summit di capi della camorra del clan di Casalesi per decidere di farmi fuori con una bomba sotto la mia auto, l'auto della scorta, oppure con un'auto imbottita di tritolo sotto la mia casa. Quindi dice le due vicende, lei dice, stridono alquanto, no? Perché avrebbe voluto uccidermi se dice che io ero connivente con lui? Ma per la verità la parola connivente, da quello che ho letto da... No, connivente non lo dice. Dice che anche una persona che ha dato una dura battaglia politica contro la camorra non ha permesso, non so con quale strumento, permesso probabilmente intendendo che chissà non abbia disposto l'ascesa in campo di eserciti militari che personale di cui possa disporre una singola persona. Ma Iovine è verità giudiziaria accertata, ben 6 o 7 collaboratori di giustizia molto prima di lui, a partire da un certo Frascogna Domenico che partecipò al summit arrestato, al summit in cui si decise la sentenza di morte nei miei riguardi perché dava troppo fastidio alla camorra. Iovine è stato uno dei capi che ha decretato quella sentenza di morte nei miei riguardi e poi dichiara questo. Ma però che si può fare, Diana? Cioè, lei a questo punto lo ritiene inattendibile oppure le sue dichiarazioni, cioè, a questo punto non dovrebbero essere prese in considerazione, oppure invece no, perché sono dichiarazioni anche importanti che svelano come il sistema lavorava in quelle zone? Ho soltanto stato e saluto positivamente l'adesione di giovani di collaborare, non dipendesse, smettiamolo di usare questo termine, perché questa gente che fa una scelta di comodo, avendo 50 anni, abituato alla bella vita, non dimentichiamo che era un frequentatore anche di locali come il Gilda di Roma, quando è arrivato all'ergastolo e al carcere duro non regge, e quindi in un calcolo di convenienza che è anche utile per lo Stato e per noi, lui ha deciso di collaborare, e penso che noi dobbiamo cogliere positivamente questa sua collaborazione, ma la collaborazione non è certamente una non è certamente una cattedra di valutazioni sociologiche politiche o morali. Questo no. Ho letto tra l'altro ieri che lui dichiara che nel 2008 sarebbe stato contento per provvedimenti del governo tesi a rafforzare la legalità, ma smettiamoli di fargli sentire dire barzellette e macchiette. Un capo clan che opprime una popolazione poi arriva a dichiarare una cosa del genere. Sì. Allora va utilizzato come uno strumento investigativo sotto. Senza dargli patente di moralità, e questo sì. Però vorrei tornare, Simone Di Meo, quello che si evince dai primi verbali e quello che racconta Iovine di come funziona il sistema è un qualcosa di prezioso o è un qualcosa che già si sapeva per gli inquirenti? Ma è assolutamente prezioso, non tanto rispetto ai contenuti che in gran parte era emerso in altri atti giudiziari, ma rispetto alla fonte da cui provengono. Quindi è questo, è il fatto che, per esempio, questa regola del 5%, lui la definisce così, che cos'è? La regola del 5% è la imposizione di una tassa di natura camorristica, di un'imposta malavitosa che il clan ovviamente obbligava a versare le aziende che riuscivano a ottenere appalti nei territori di propria competenza. Ovviamente la questione è emersa già in altri atti giudiziari, ma quello che può spiegare bene Iovine sono le spartizioni all'interno del clan dei territori. Ciò che può spiegare bene Iovine sono le aziende con il sangue mafioso ma la faccia pulita che si sono accaparrati appalti non solo in provincia di Caserta, non solo in Campania, ma nel resto d'Italia. Ricordiamo che Iovine, per sua stessa ammissione, è uno dei quattro quotisti del clan, uno dei quattro capi che aveva la responsabilità economico-finanziaria del mantenimento di tutta la struttura. Sì, tra l'altro, io devo dire questo e poi ci ragioniamo dopo la pubblicità, mi ha molto colpito sempre dal verbale, e quando Iovine dice è un sistema che vede coinvolti imprenditori e funzionari pubblici e consente di controllare assegnazione e espletamento di appalti, non c'è stato bisogno tante volte non solo di usare la violenza, ma addirittura nemmeno di parlare in maniera esplicita. I funzionari pubblici sono stati costantemente corrotti. Ecco, questo è il senso del sistema, dice Iovine. In alcuni casi, tante volte, non c'era neanche bisogno di parlare, di usare la violenza. Era sistematico che andasse così. 24 mattino. Siamo qui alle 8:38 minuti, stiamo parlando del pentimento di Antonio Iovine, uno dei capi dei casalesi. Siamo con Simone Di Meo, collega, con Lorenzo Diana, ex senatore del Partito Democratico, ha fatto parte della commissione antimafia da anni sotto scorta proprio per le minacce di Antonio Iovine. Che è accertato, insomma, aveva progettato un attentato per farlo saltare in aria, e che però oggi viene appunto citato anche negli stessi verbali di Iovine come un politico che, pur avendo combattuto molto la criminalità organizzata, ha permesso, uso le parole di Iovine, ha permesso che continuassimo ad avere appalti. Ecco, però, senatore Diana, le chiedo questo: lei ha già detto perché uno come Iovine mi cita come uno che non ha, che ha permesso ad avere appalti, e poi lo stesso Iovine che mi voleva far uccidere. Però lei si dà una spiegazione, le ribalto la domanda. Allora io dico, perché secondo lei la cita? Per gettare fango anche su di lei? Perché lo fa? Ma perché lo faccia potrebbe essere anche per un una vita di impegno che sicuramente ha creato problemi a lui, anche alla sua diretta famiglia. C'è una vendetta, si vuole vendicare. Potrebbe essere, ma non sono sereno anche non chiedermelo, perché certamente un capo camorra che nella vita ha deciso anche di uccidere persone, che aggiungo una parola di genere o meno, non mi sorprende più di tanto. Sono sereno rispetto al fatto che i magistrati che trattano questo collaboratore di giustizia sono professionalmente molto apprezzati, profondi conoscitori del sistema camorra, e quindi questa dichiarazione, che per la verità è di una specie di illustrazione di un sistema a cui bisogna dare il nome giusto, Ione ha fatto bene a collaborare con lo Stato e fa bene, ma almeno per dal nostro punto di vista di cittadini e tesi a salvaguardare la libertà e la legalità, ma noi non abbiamo bisogno di un collaboratore di giustizia, di un capoclan che venga a fare dichiarazioni ovvie. Sì. Ovvietà pure come quelle sul sistema mafioso. Cioè le ovvietà sul sistema no, però, però invece sui nomi magari sì, cioè faccia i nomi e dica. Certo. E poi vanno ovviamente verificati dai magistrati, come in un'intervista oggi a Repubblica all'ex procuratore antimafia di Napoli Cafiero De Rao, che oggi è il procuratore capo a Reggio Calabria, dice le parole di ogni pentito vanno prese con le pinze e pesate bene. Fatemi sentire un ascoltatore. Vincenzo ci chiama dalla provincia di Caserta proprio. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno dottor Milan. Dica. Senta, io varie volte stavo per chiamare Radio 24, poi per pigrizia ho tralasciato. Stavolta però non ce l'ho fatta, cioè da ieri mi ribolle il sangue. Io vorrei fare un paio di domande, se fosse possibile, a Iovine. Sì, sì. Se tutti a Iovine. È un po' difficile, però vorrei capire una cosa, ma se tutti i politici erano uguali, che hanno sparato a Fontana, a Casapesenna, non ricordo se il nome fosse questo, riducendolo su una sedia a rotelle, perché hanno minacciato Diana? Perché hanno minacciato Renato Natale, ex sindaco di Casal di Principe, facendo cadere la sua giunta? Perché sono andati a casa di vari candidati, aspiranti candidati, consigliandogli, per l'amor di Dio, consigliandogli di non candidarsi, perché la politica porta solo problemi, non era il caso di impecolarsi in queste cose. Se il sistema funzionava per tutto, che bisogno c'era di fare questa azione? Quindi lei vuol dire non è vero, cioè attenzione a dire, a buttare tutto nel mucchio, a dire sono tutti uguali. Tra l'altro io devo dire una cosa, Renato Natale, che saluto, so che ci ascolta, lo volevamo chiamare. Renato Natale era l'ex sindaco di Casal di Principe quando fu ucciso Don Diana, Simone Di Meo, aiutami. L'abbiamo chiamato, lui era gentilmente era disponibile, è però candidato attualmente ancora a Casal di Principe ed è al ballottaggio, quindi per una questione di par condicio, magari ne parleremo dopo le elezioni, non possiamo ospitare lui senza correttamente ospitare anche l'altro candidato sindaco. Simone Di Meo, non tutti i politici sono uguali, dice l'ascoltatore. Sì, io vorrei fare giusto una brevissima parentesi, un piccolissimo inciso. Attenzione a considerare questi quattro verbali come i primi quattro verbali della collaborazione di Iovine. Iovine, i nomi dei politici, i nomi dei referenti nella pubblica amministrazione, dei burocrati, degli imprenditori, li ha fatti. Questi sono quelli che la procura ha ritenuto di dover desecretare. Sì. Quindi non è che il resto sono segretati, quindi vuol dire certo, quindi nei verbali ci sono dei nomi magari e delle vicende anche ancora più tra virgolette esplosive dal punto di vista mediatico, secondo quelli te. Che ho avuto modo di leggere io sono omissati per varie pagine e sono i primi quattro in ordine cronologico, ce ne saranno altri sicuramente che approfondiranno queste tematiche, quindi bisogna sì da un lato valutare con attenzione la caratura e la portata di queste dichiarazioni, ma non si può ridurre tutto a un fenomeno da baraccone, perché le cose da dire Iovine ce l'ha, le sta dicendo, le ha dette, quindi questo è soltanto ciò che la procura in questo momento di un processo a carico di un consigliere regionale e di un gruppo di imprenditori casertani ha ritenuto di desecretare. Quindi facciamo questa precisazione per evitare di ingenerare una falsa aspettativa. Poi per quanto riguarda la domanda dell'ascoltatore, dell'ascoltatore, è chiaro che l'immagine che Iovine, forse anche con tratti lirici, vuole trasmettere è quello di uno spontaneismo criminale in provincia di Caserta, ma ciò non significa, come, e qui ci colleghiamo al passaggio che tu hai letto in apertura, non significa che tutto è marcio in provincia di Caserta. Iovine afferma che c'è stata la cultura della mazzetta, della connivenza, dell'omertà nei territori di Gomorra perché l'ha portata allo Stato, ma Iovine bisognerebbe dire, e io credo che sicuramente i PM lo fanno e lo faranno e l'hanno fatto, che Caserta è anche il territorio dove un prete è stato ammazzato perché ha detto che non avrebbe concesso alcun tipo di attenuante allo strapotere di Camorra. Quindi è chiaro che la valutazione dell'ascoltatore è valida nel momento in cui si contestualizza il verbale di Iovine soltanto in riferimento a una parte infinitesimale dei suoi racconti e delle sue conoscenze. No, ma certamente, no, è chiaro, io guarda, devo andare alle informazioni sul traffico, per il momento ci fermiamo qui, ma come hai detto tu è solo un'anticipazione di quello che potrebbe anche uscire successivamente. Allora nel frattempo ringrazio Simone Di Meo e ringrazio Lorenzo Diana, ex senatore del Partito Democratico, lo voglio ricordare anche oggi, sotto scorta per le minacce proprio di Iovine, quello stesso Iovine che lo cita nei verbali. Questo per dire quanto poi è complicato maneggiare con cura, insomma, questa vicenda. Grazie. Dopo il traffico avremo con noi l'onorevole Maurizio Bianconi di Forza Italia per cercare di parlare di politica. Berlusconi che dice non ci sono soldi nel partito, ma com'è possibile? Allora eccoci qua, le 8:49 minuti, gli ultimi 7 minuti li spenderemo in compagnia dell'onorevole Maurizio Bianconi di Forza Italia. Buongiorno, eccoci, ben ritrovati. Buongiorno a lei dottore, grazie, buongiorno. Come abbiamo sempre detto, lei è il tesoriere era il tesoriere del PDL, non di Forza Italia. Sono il tesoriere. Ah, ancora, è vero, è che tutte le volte sono sbaglio. Sono commissario liquidatore. È vero che esiste ancora per le casse, diciamo. Però lei non è tesoriere di Forza Italia. No. Però insomma conoscerà un po', visto che venite da lì, provenite da lì. Come mai Berlusconi dice che non ci sono soldi, ma li metta lui, no? Che diamine, e come non può? Non può, c'è una legge, più di 100.000 euro l'anno non li può mettere. Ah, non li può. E come faceva gli anni scorsi, insomma, finanziava sempre? Prima non c'era la legge, li anticipava. No, da noi ha anticipato pochissimo. Forza Italia so che l'ha finanziata moltissimo. L'ha finanziata moltissimo. Però, sì. Però, ma è vera questa storia che non ci sono soldi anche perché quei farabuttoni dei parlamentari non mettono i soldi, non mettono le quote? È probabile, anche perché in genere un partito si paga quando si vede che c'è il partito. Se non c'è il partito chi lo paga? Però non è facile così salire sul treno senza pagare il biglietto, perché magari il treno va un po' lento. No, è così perché non ci sono le sedi locali, non ci sono i coordinamenti eletti, non c'è una macchina che funziona e quindi in più in genere, non faccio per scusare i morosi perché non va bene mai, però questo è un po' il meccanismo, comunque sarebbe una parte infinitesima del necessario. Questo sì, cioè spieghiamo, ogni parlamentare dovrebbe dare una quota, ma non essendoci il partito nel territorio da nessuna parte, con ogni probabilità la quota viene spesa, anche perché lei sa che ogni parlamentare deve fare il rendiconto delle spese che prende di rimborso per le spese, le fa regolarmente, che vuol dire che li spende. Ma vi faccio il nome di qualche moroso doc? No, questo non lo facevo neanche quando avevo le carte in mano. È una questione di privacy, non si può assolutamente. Ma poi non è problema mio, non lo conoscerei neanche. Ho capito, ma quando era lei quello che proprio doveva inseguire? Questo fu fatto a suo tempo un elenco, non da me, e fu pubblicato. Allora vede che è pubblico. Non è pubblico. Riuscirò a trovarlo però. da quell'elenco che lei non confermerà mai. Non ne ricordo neanche uno, dottore. Faccio quale cose che non posso dire. Mannaggia, non se ne ricorda. Secondo me li inseguiva. Una domanda così me la poteva fare Crucianni, mica lei. che per lei è un insulto, tra l'altro. Sì, quasi. No, è un simpatico ragazzo, ma non ha la targhetta del limite, lei sintomo. Ah, ecco, io mi fermo prima. Senta, ma Berlusconi è ancora, perché dice basta questa storia dei figli, quando di tirare in ballo figli, quando lui stesso varie volte insomma ha detto ma forse sì, chissà, e adesso invece dice il leader sono io, è ancora lui il leader? Ma in più su questo, senza scherzi, al di là di ogni presa di giro, ma chi lo piglia al 17% nel centrodestra? Fratelli d'Italia? Lo piglia Salvini? Lo pigliano le liste civiche? Lo piglia Fitto, che anche ieri ha riconosciuto che ha tutti quei voti perché c'era il simbolo con scritto Forza Italia Berlusconi? Poi ci sono le voti di presa. Ho capito, ma Berlusconi... Anche Fitto è primo a dire che il leader è lui. Il leader è lui. Ma Berlusconi mica è eterno. È lui. Ma mica è eterno Berlusconi. E neanche Napolitano, a 90 anni siete lì a di tutti che bravi. Ma Napolitano, infatti, Napolitano mica si, come dire, si candida e prende voti, magari non ne prenderebbe. No, Napolitano sta al Quirinale, prende 128.000 euro l'anno dal popolo italiano, determina da 10 anni o più la politica italiana, nomina e detta chi sono i presidenti del Consiglio, ordisce i complotti che ordisce, sì. E ha 90 anni e va bene. Questo una 78 e non può gestire un partito. Ma no, che certo che può farlo, lo gestisca fino a quando ne ha 120. Fino a quando ha trovato dei voti è giusto che lo faccia. Non ci trovo niente di strano. No, certo, ma un partito... Non che si dica dopo di me Marina, oppure questo è Toti, questo è Battisti, questo è Garibaldi, ecco, questo sì è più ridicolo. Ma che lui gestisca il partito in quanto leader non lo trovo. Va bene, ma perché c'ha contro Toti? Non va bene Toti? No, non mi piace il concetto dell'unzione dall'alto. Poteva dire anche questo Bianconi, non mandava bene lo stesso. Ma allora perché non fare delle belle primarie come nel centro-sinistra? Perché per le primarie bisogna... Io penso che bisogna un pochino riarticolare il concetto diffuso. Le primarie sono un po' un mantra di per sé, come se si dice come primarie che un partito politico oggi che non può più vivere di tessere, né può più vivere, diciamo così, allo sbando, debba articolare, uso una frase fatta ma penso che si capisca, articolare il consenso diffuso, cioè bisogna che vada un pochino nei posti a vedere chi c'è, chi non c'è, chi conta qualcosa, chi non conta, e trovi il sistema di mettere nella gerarchia di partito, questo è pacifico. Se no non se ne esce, su questo è pacifico, non se ne esce. Vabbè, ma secondo lei quanti soldi servono a Forza Italia? Così è, lei... Non lo so questo perché non ho i conti in mano veramente. Vabbè, più o meno. Comunque, chi ha detto a Berlusconi che Forza Italia si sarebbe autofinanziata, gli ha detto cosa... Sbagliata. No, molto sbagliata. Molto sbagliata. Io mi sono opposto fino all'ultimo alla fine del finanziamento pubblico dei partiti, come lei sa. Certo. Perché sapevo che ci si arrivava e mi meraviglio che ancora non pianga il PD. PD ha troppi ministri per piangere, quando se ne accorgeva vedeva che piangeranno anche loro. Però Bianconi, in conclusione, io devo capire perché lei ogni tanto le prende come dire, i 2 minuti su Twitter e manda a quel paese, uso un eufemismo, Matteo Renzi. Proprio, cioè, sì, gliele dice. Sì, perché io lo conosco, è un bugiardo nato. Vabbè, ho capito, siccome lo conosce può mandarlo a quel paese, ma non è quel paese lei, proprio lo manda. Sì, vero, ma non si merita. Detto questo, dico e do atto, perché io rispetto questo, che il popolo italiano vota sempre molto meglio di quanto i politici prevedono. Se il popolo italiano in questo momento ha ritenuto opportuno votare Renzi per quello che è quantomeno il meno peggio nella piazza, lo voti e lui faccia il suo dovere. Ciò non toglie che sia un cazzaro. Un cazzaro, è vero, lei lo chiama così, cazzaro. Va bene, io mi fermo qui, la ringrazio Maurizio Bianconi per essere stato con noi, onorevole di Forza Italia. Ci fermiamo con Miriam Lucchetti in redazione insieme a Alessandro Marco Tulli ed Elisabetta Fusconi, come sempre, e il nostro Peter Bescapè in regia, in plancia di comando lì con la penna d'Alpino. Quanti giorni mancano alla radunata all'Aquila? 340 circa, l'anno prossimo all'Aquila. Intanto noi ci sentiamo più umilmente domattina alle 6:30. State con noi.